Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Siamo in diretta dalla fiera di Bologna, dove e parleremo anche del settore auto, dove c'è la più importante fiera quest'anno per quello che riguarda la filiera dell'auto, Auto Promotech, ma soprattutto anche sarà l'occasione per fare un bilancio di quello che è l'andamento di un settore in estrema difficoltà. Pensate che in Italia prima dell'inizio della crisi si immatricolavano circa 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 600 mila auto all'anno, ora siamo arrivati esattamente alla metà. 25esima edizione della fiera Auto Promotech, dicevo, edizione record, anche perché quest'anno non c'è quella di Francoforte. 1500 espositori, di cui il 40% provengono dall'estero, e tra l'altro 156 mila metri quadri e 52 paesi rappresentati, con una forte crescita degli stranieri rispetto all'ultima edizione, che fu quella del 2011, perché un anno è a Francoforte, un anno è a Bologna, dicevo del 2011, quando vi furono circa l'8% in meno di espositori stranieri, per un indotto che vale 1.200.000 addetti, di cui 65.000 della Fiat, ma c'è poi tutto l'indotto complessivo di tutta la filiera che lavora sull'auto. 37 miliardi di euro il fatturato della componentistica, erano 42 nel 2011, quindi 5 miliardi in meno tra 2011 e 2012, ma una bilancia commerciale positiva per 7 miliardi e mezzo, ossia l'Italia riesce comunque, anche e soprattutto con produzione di nicchia di alta qualità, a esportare più di quello che importa, con una differenza positiva per noi per 7 miliardi e 4. Di questo parleremo, dicevo, ma anche gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. In primo luogo il Consiglio europeo di Bruxelles dovrebbe discutere di fisco, ma è probabile che arrivino anche delle proposte inerenti, o già una prima fase, diciamo, di proposte su come arrivare a maggior crescita in Europa e quindi liberare risorse in Europa, anche se il Consiglio europeo più importante su questo fronte sarà quello del prossimo fine giugno, in cui si discuterà proprio delle politiche per la crescita, ma anche le notizie che arrivano dall'Italia, o meglio la fotografia dell'Italia che scatta l'Istat, ne parleremo più avanti. Sostanzialmente una fotografia che per alcuni versi è già nota. A me ha molto impressionato come in 381 famiglie in Italia lavori solo la donna, un 70% in più rispetto al 2008. Quindi sono i dati del censimento statistico, anche dell'Istat, e da questo punto di vista l'altra cosa che a me ha fatto particolare impressione è non solo il crollo del potere d'acquisto, meno 5% quasi, consumi meno 4,3%, con le famiglie che riducono la quantità del cibo acquistato, e quindi il 62% delle famiglie riducono la quantità del cibo acquistato, il che potrebbe essere anche non un male, magari si evitano degli sprechi. I dolori arrivano quando vediamo che ci sono anche molte famiglie che riducono anche la qualità del cibo acquistato. Ma dicevo, la cosa che mi ha impressionato è vedere come l'Italia, quando io studiavo, insomma, l'economia italiana era nota per essere quella in cui il tasso di risparmio era più alto, eravamo noi e il Giappone ad avere un risparmio privato altissimo. Quest'anno, o meglio l'anno scorso, perché i dati sono relativi al 2012, l'Italia è scivolata come propensione al risparmio agli ultimi posti in Europa, e questo chiaramente può essere frutto di un cambio culturale del risparmiatore italiano, ma è anche e soprattutto frutto della crisi. La propensione al risparmio è scesa all'8,2%, sono 4 punti in meno rispetto al 2008, quando la propensione al risparmio era al 12%, e la cosa impressionante è che siamo scivolati al livello più basso. Più basso di noi c'è solo la Gran Bretagna, ma insomma la Gran Bretagna da sempre ha un livello di risparmio bassissimo. Questo per quello che riguarda il rapporto Istat. La borsa guadagna mezzo punto percentuale in questo momento, Milano, guadagna mezzo punto anche Francoforte, lo 0,60 per essere precisi, lo 0,14 il rialzo di Parigi, gli Stati Uniti più 0,56% in questo momento. Chi va bene in borsa oggi? Beh, soprattutto Enel Green Power più 2,70, Intesa San Paolo più 2,30 come UBI Banca, Buzzi Unicem più 2,20 e Monte dei Paschi più 1,90, l'1,60 lo guadagna 2 all'1,20 Exor. Fronte opposto invece Terna meno 3,30, Snam meno 1,20, Fondiaria meno 1,1, ST Microelectronics meno 1%. Tra i titoli, tra i migliori e peggiori vi segnalo Edes più 19%, invece Mertecnimo meno 3,72%. Ultima cifra, quella per i vostri SMS, 349-238-6666 per i vostri SMS e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. C'è molta attesa oggi anche per l'intervento di Ben Bernanke, che ha parlato al congresso. Ben Bernanke è il numero uno della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, ha detto attenzione a una stretta prematura della politica monetaria, quindi tornare a rialzare i tassi di interesse prima del tempo potrebbe rallentare o mettere fine alla ripresa economica. E dalla politica accomodante di tassi bassi sono arrivati importanti, anzi significativi benefici all'economia. La disoccupazione resta alta ed è molto costosa, le condizioni finanziarie in Europa, perché si è occupato anche di Europa Bernanke, ha detto sono migliorati, con un miglioramento del mercato del lavoro americano la banca centrale americana, la Federal Reserve, ridurrà gradualmente gli acquisti di titoli di Stato, si chiama quantitative easing, è il modo in cui una banca centrale sostanzialmente stampa moneta, cioè va a acquistare lei il debito dello Stato e per farlo chiaramente stampa moneta. Già dalle prossime riunioni la Banca Centrale Americana potrebbe ridurre la velocità del quantitative easing, di questi acquisti, pari attualmente a 85 miliardi di dollari al mese. E ancora la cancelliera Angela Merkel, la donna più potente al mondo, lo ha confermato la famosa classifica che ogni anno viene stilata dalla rivista Forbes. Tra le prime 10 anche Melinda Gates, Dilma Rousseff, Michelle Obama, Hillary Clinton e Christine Lagarde. Sta emergendo già qualcosa dal Consiglio europeo che, ripeto, oggi dovrebbe occuparsi di fisco e soprattutto di lotta all'evasione. Dalla bozza che verrà presentata al vertice di oggi si chiede appunto di accelerare il lavoro nella lotta alla frode e all'evasione fiscale, ma soprattutto di avviare al più presto i negoziati con la Svizzera, con San Marino, con Andorra e con Monaco e anche il Liechtenstein, per assicurare che quei paesi continuino ad applicare misure equivalenti a quelle dell'Unione Europea. L'obiettivo è dimezzare l'evasione fiscale, sono 1.000 miliardi di euro in Europa, nell'area euro, di gettito fiscale che vengono persi ogni anno, dimezzarli entro il 2020 e subito il Presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz ha chiesto di eliminare i paradisi fiscali a livello mondiale, un compito titanico, ma ne vale la pena. Come primo passo dovremo accordarci una volta per tutte sulla definizione di paradiso fiscale e sulla base di questa definizione stilare una lista nera. Dicevo del rapporto annuale dell'Istat e dicevamo della propensione al risparmio degli italiani che cala e scende a livelli più bassi per quello che riguarda l'area europea, ripeto, peggio di noi fa solo la Gran Bretagna, ma ci sono altri dati che riguardano gli effetti di questa crisi, per esempio il calo dell'occupazione è triplo al sud, rispetto al nord, praticamente una flessione del 4,6% al sud dell'occupazione, non la disoccupazione, cioè l'occupazione vuol dire tutti quelli che lavorano tra tutti quelli che potrebbero lavorare, la disoccupazione fotografa invece quelli che non lavorano tra quelli che stanno effettivamente cercando un lavoro. Dicevo, il calo è triplo al sud rispetto al nord e con tra il 2008 e il 2012 si sono persi 500.000 di posti di lavoro, ma con diverse variazioni tra le tipologie. Per esempio, gli occupati standard, quelli a tempo pieno e contratto indeterminato, sono diminuiti di quasi 1.950.000 sia dipendenti che autonomi, mentre sono aumentati di quasi 500.000 quelli part-time. Gli atipici, collaboratori e contratti a termine, sono cresciuti di 20.000. E tra i disoccupati la metà aspetta da oltre un anno di ricollocarsi. È cresciuta infatti la disoccupazione di lunga durata, quelle che fatta da persone che cercano un lavoro da più di 12 mesi, 675.000 in più tra il 2008 e il 2012, e ormai sono la metà del totale dei disoccupati, il 53%, mentre nel resto d'Europa la media è decisamente più bassa, sono solo il 44% i disoccupati di lunga durata rispetto al totale. E per quanto riguarda i giovani, da 3 anni dal diploma, dalla laurea, solo il 57% ha trovato un lavoro, e non stiamo parlando di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato, stiamo parlando di un lavoro qualsiasi, di un contratto qualsiasi, solo il 57%. Ma la crisi ha colpito anche duramente i dirigenti e imprenditori. Pensate che tra il 2008 e il 2012 sono scomparsi 400, comparsi come figure professionali ci mancherebbe, 450.000 tra dirigenti e imprenditori. E su questo, su tutto questo insieme di elementi, dalla caduta del reddito disponibile e del potere d'acquisto alle famiglie in difficoltà economica, la nostra Alessandra Schepisi ha raggiunto l'Inde Laura Sabatini, che è il capo dipartimento per le statistiche sociali e ambientali dell'Istat. La caduta del reddito disponibile che c'è stato in questi anni e la caduta del potere d'acquisto delle famiglie ha fatto sì che si raddoppiasse in 2 anni il numero di famiglie che sono in grave deprivazione e che vivono quindi un grande disagio. Addirittura arriviamo a un quarto della popolazione che è in questa situazione di grave disagio o nel 2011 o nel 2012 o in tutti e due gli anni. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, quanto ha pesato la crisi? La situazione del mercato del lavoro è particolarmente critica. Quello che va sottolineato è che abbiamo due fenomeni fondamentali. Un primo fenomeno è quello della caduta dell'occupazione, che a partire dal 2008 è stata di 500.000 unità. Il calo è stato molto più accentuato al sud, che ha visto che ha avuto un calo di occupati 3 volte superiore a quello del nord del paese. Il segmento più colpito da un punto di vista dell'occupazione è stato quello dei giovani. I giovani hanno perso 7 punti di tasso di occupazione, 727.000 occupati in meno, e contrariamente a quello che si pensa, avere una laurea paga di più nella possibilità di trovare un lavoro o comunque di mantenerlo, perché i giovani che sono più colpiti sono quelli con un basso titolo di studio o con il diploma. Sì, potremmo dire che piove sul bagnato, nel senso che tutta questa crisi, poi magari un giorno riusciremo a affrontare il tema anche in maniera più articolata, non è che colpisca tutti nello stesso modo. Il divario sociale per esempio è aumentato, quindi la fascia del 10% più ricca è più ricca rispetto alla fascia del 90% più povera, ma soprattutto vari elementi, l'inflazione ha penalizzato in questi anni soprattutto i redditi più bassi, e anche altre misure di carattere fiscale hanno penalizzato più i redditi più bassi, e appunto anche nell'occupazione dei giovani vediamo che vengono penalizzati anche qui le parti più deboli della popolazione. Quindi c'è un doppio effetto negativo: non solo la crisi vale per tutti, ma colpisce ancora di più quelli che erano già in maggiore difficoltà e dal punto di vista professionale anche più deboli. Andiamo avanti su questo e sull'occupazione. È intervenuto anche il ministro del lavoro Giovannini, ex presidente dell'Istat, rispondendo anche alla così critica che gli fa oggi Francesco Giavazzi su Corriere della Sera, il quale dice: attenzione, la staffetta generazionale non è il modo per risolvere il tema dell'occupazione. Cosa vuol dire staffetta generazionale? Vuol dire che con un PIL che non cresce, con una torta che resta sempre uguale dell'economia, si ipotizza che i lavoratori più anziani lasciano il posto a quelli più giovani. L'obiezione di Giavazzi è, vabbè, potremo, qualche vantaggio c'è, perché un giovane che resta fuori dal lavoro perde professionalità, perde incentivo, perde motivazione, però semplicemente vai a dare il posto del padre al figlio, ma non crei nuova occupazione, non migliori, diciamo, lo stato economico del paese. La replica del ministro Giovannini, che dice non è l'unica soluzione, ma aiuta anche questo. Pensare che la crescita si faccia attraverso modifiche normative è sbagliato. La crescita la fanno le imprese e i lavoratori, come avevamo scritto nel documento anche dei cosiddetti saggi. Allora, da questo punto di vista, noi possiamo cercare di favorire l'occupazione, ma se le imprese, il mondo del lavoro non è propositivo, non è aperto al futuro, è chiaro che non riusciremo. Gli strumenti sono anche naturalmente il credito alle imprese, sono anche la propensione all'innovazione, sono anche quelle debolezze che abbiamo visto oggi da questo rapporto annuale, le imprese stesse devono cercare di superare. In questo senso sappiamo che la strada è difficile e lunga. La ragione per cui ci stiamo concentrando sull'occupazione giovanile è che avere così tanti giovani così a lungo disoccupati può avere degli effetti psicologici permanenti, come ci mostrano alcune analisi economiche, che poi hanno effetti di lungo termine. Essere disoccupati o non riuscire a entrare sul mercato del lavoro per un anno o due anni evidentemente ha un effetto psicologico molto forte. Diamo a Giavazzi quel che è di Giavazzi, a Lesina quel che è di Lesina. Io l'ho confuso, chiedo venia, chiaramente l'articolo di oggi su Corriere della Sera è di Alberto Alesina e a lui va la risposta appunto del ministro al lavoro Enrico Giovannini. Andiamo avanti ancora con due notizie. Già il nostro GR vi ha raccontato dell'indagine nei confronti di Emilio Adriano Riva, proprietario dell'Ilva di Taranto, indagine per riciclaggio, truffa ai danni dello Stato, trasferimento fittizio di beni per i proprietari dell'Ilva. Altri due professionisti risultano indagati. L'inchiesta ha portato al sequestro di 1 miliardo e 200 milioni di Riva bloccati nel paradiso fiscale di Jersey. E secondo l'accusa, gli immobili, i titoli e le disponibilità finanziarie per un valore appunto di oltre 1 miliardo sarebbero stati ottenuti sottraendo soldi all'IVA. Gran parte di questi soldi sono usciti dalle casse del colosso siderurgico. L'ipotesi della procura, che l'ha avanzata dopo aver analizzato le operazioni di compravendita di azioni effettuate dalla famiglia Riva tra il 96 e il 2006, e che hanno consentito alla famiglia Riva di accumulare un ingente patrimonio nel paradiso fiscale di Jersey. Tra l'altro, parte di questi soldi, quasi tutti, sarebbero già rientrati in Italia nel 2009 grazie allo scudo fiscale. Erano finiti attraverso operazioni finanziarie nel paradiso fiscale di Jersey, noto trust gestito da una fiduciaria, dopo essere passati per il Lussemburgo. Allora, voglio essere molto chiaro su questo: noi abbiamo sempre difeso l'Ilva come sito produttivo, abbiamo sempre detto che si doveva trovare una soluzione per evitare che da un lato vi fosse un danno o un perpetuato danno alla salute degli abitanti di Taranto, ma dall'altro vi fosse un danno economico in un periodo di crisi ai dipendenti, ai lavoratori e quindi alle famiglie che vivono grazie all'Ilva. E questo è un fronte. Per quello che riguarda l'atteggiamento dei fratelli Riva, se fosse confermato quello su cui indagano i PM, cioè addirittura sottrazione di denaro, qui non c'è semplicemente il riciclaggio, ma c'è anche la sottrazione e truffa ai danni dello Stato, quindi aver sottratto risorse all'Ilva sarebbe gravissimo, ingiustificabile e vuol dire giustamente dovrebbe arrivare una sentenza. Quindi non confondiamo, lo dico già a chi scrive i due piani, il mantenimento dello stabilimento dell'Ilva di Taranto con quello che invece di cui vengono invece accusati i fratelli Riva. Ancora due notizie, anzi più di una, dalla crisi, ce ne sono parecchie oggi, ma io devo anche fare il resto del programma. Allora, andiamo rapidamente, non riusciremo a leggere tutte, le altre le rimando a domani, ma ce ne sono alcune di carine, perché insomma l'Enasarco, comunque dai, non tregge più, vai. fosse in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, una buona notizia oggi c'è in realtà, perché la regione Lazio, che non ha certo brillato nella giunta Polverini, capogruppo Fiorito, per risparmi o per l'utilizzo dei soldi dei cittadini per le spese consigliari, beh, insomma, oggi dà il buon esempio. Infatti la Commissione Bilancio ha fatto passare un emendamento che fissa a 180.000 euro lordi il tetto agli stipendi dei dirigenti regionali, 40% in meno rispetto al massimo previsto per i dipendenti statali. È stato votato all'unanimità, riguarderà 15 dirigenti regionali della regione che guadagnano tra 210 e 220 mila euro l'anno. E invece, vediamo di capire che cosa succede all'Enasarco, perché l'Enasarco è una cassa previdenziale che beneficia di fondi pubblici ma anche della contribuzione obbligatoria, una sorta di finanziamento pubblico a sua volta. Allora, qui ci sono dei casi un po' strani, perché il generale della Guardia di Finanza, che guida l'unità investigativa della finanza contro il crimine organizzato, Scico, paga 650 euro di affitto per un appartamento di 120 metri quadri sulla Colombo. Suo padre Francesco ne paga 283 al mese per un appartamento di 59 metri quadri. E poi Giuseppe Barbagallo, dell'ente previdenziale dei lavoratori agricoli, Giuseppe Salvaggi dell'Unione Sindaco Inquilini, che si dà al tavolo delle trattative con gli enti, tutti hanno, diciamo, trattamenti di favore con Enasarco. Sull'affittopoli dell'ente guidato da Brunello Bocco vi fu una raffica di interrogazioni da parte, se non ricordo male, dell'Italia dei Valori, e con una denuncia proprio sul prezzo applicato agli inquilini. Sono 17.000 gli appartamenti messi in vendita negli ultimi 5 anni, a cifre che oggi lasciano sbalorditi, ma insomma, in realtà un paio d'anni fa, specie alle famiglie che potevano riscattarle con lo sconto del 30%, sembrava la soluzione della vita. Tra gli invidiati inquilini dell'Enasarco, politici, dirigenti RAI, sindacalisti, ma appunto soprattutto gli stessi vertici, e in primis Bocco, che ha la disponibilità di due case, e inquilino in una casa degli agenti di commercio anche l'ex generale del Sismi Niccolò Pollari, Maria Burani Procaccini, già deputata di Forza Italia, suo figlio Nicola, portavoce dell'ex ministro Giorgia Meloni. Tra i direttori RAI c'è anche Massimo Lioffredi di RAI 2, tra i pochi a rinunciare alla casa dell'Enasarco l'ex ministro della giustizia Roberto Castelli. E sì, è che l'ente previdenziale degli agenti di commercio non si capisce come sia arrivato ad avere, a mettere in vendita, e con che percorso, noi ci fidiamo, sarà un percorso onestissimo, però insomma 17.000 appartamenti in 5 anni. Ora io vorrei chiudere, perché poi parliamo sempre di investire nella scuola, investire nella formazione, però mi fate capire com'è possibile che all'Istituto Tecnico Einaudi Grieco, Istituto Tecnico Superiore a Foggia, l'edificio ospiti 600 alunni tra maschi e femmine e abbia solo un bagno utilizzabile. Cioè, in realtà avrebbe altri due bagni che si trovano sui due piani dell'istituto, sottoposti a lavori di ristrutturazione mai portati a termine per una serie di problemi e scontri tra le due imprese. Il caso adesso è giunto nell'aula del Consiglio di Stato, ma al di là qui, più che l'economia, mi sembra un tema di civiltà che non è riuscito a risolvere nemmeno il dirigente Tonino Soldo, da un anno a capo dell'istituto. Oh là là. Domani vi leggo le altre, perché abbiamo anche altri temi, perché ce ne sono di bellissime. Bologna che invita i turisti gratis, basta che ne parlino sul web, non è male. E invece di nuovo Bergamo in tasca perché dopo errori tardi e gaffe salta il lancio ufficiale dell'app Bergamo in tasca, dove essere una app per agevolare i turisti nella città di Bergamo. minuti, di nuovo in diretta con Focus Economia da Bologna, appunto per la 25esima edizione della fiera Auto Promotech. Devo dire che stanno arrivando decine di messaggi degli agenti di commercio furibondi per la vicenda Enasarco. Ho capito, io non ci posso fare molto, ma attenzione, è così, ci sono vendite di appartamenti a prezzi apparentemente di favore. Ripeto, c'è già una denuncia fatta 2 anni fa in procura a Napoli dopo inchieste che documentavano corsie preferenziali e favoritismi. Adesso andiamo invece alla borsa, poi parleremo del settore appunto dell'automotive, della filiera dell'automotive. Borsa che oggi vede una chiusura buona di Piazza Affari, ma soprattutto migliore anche di Parigi e di Francoforte, o meglio in linea con Francoforte, migliore di Parigi, più 0,70 Milano, più 0,65% Francoforte, più 0,37 Parigi. L'America guadagna lo 0,65%, tra i titoli bene Enel Green Power più 3%, bene anche alcuni bancari, soprattutto Intesa San Paolo più 2,60%, e allora borsa sia. Dicevo, Enel Green Power più 3%, Intesa più 2,60. Buona l'intonazione dopo le parole che ricordavamo in apertura del programma, pronunciate da Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve americana. Ciao Condina, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Ben allora, Bernanke sicuramente sì, ha sottolineato innanzitutto che le politiche accomodanti scelte dalla Banca Centrale Americana sono ancora necessarie, e questo indubbiamente ha subito dato fiato ai listini, anche perché nelle ultime settimane si erano moltiplicate le voci, anche se non la stessa Fed, che queste politiche monetarie potessero essere, se non interrotte, quantomeno affievolite. Poi anche elogiati, perché il mercato del lavoro americano e della congiuntura finanziaria europea, tutti i messaggi che hanno infiammato, dato benzina ai listini continentali, in particolare ai titoli finanziari a Milano. Mentre Enel Green Power, anche su questo titolo c'è un effetto americano, ma di altro genere. Sì, perché Enel Green Power sostanzialmente ha rafforzato la partecipazione che ha in 2 controllate americane attive nell'energia eolica, l'ha portata al 75%, quindi sostanzialmente a una maggioranza di blocco, e sicuramente rafforzerà la presa in questo modo su queste società, e il mercato ha premiato questa mossa della controllata di Enel. Ancora per quello che riguarda le banche, poi arriveremo a Fiat, non vi preoccupate, vedo che c'è una nota di Fiat, adesso la leggerò, ma dicevo, per quello che riguarda le banche, oltre a Monte dei Paschi, oltre a Intesa San Paolo, c'è anche UbiBanca più 2,40 e Monte dei Paschi più 1,80%, scusate ma il sistema è un po' lento qui in esterna, e ancora Emilia Romagna più 1,20%. Terna invece ha perso parecchio oggi, il 3,36%. Eh sì, su Terna c'è l'effetto del collocamento della quota da parte dell'imprenditore Minozzi, una quota decisamente consistente, il 5,3%, un collocamento effettuato a 3,35 euro, e c'è chi fa notare tra gli operatori che comunque il titolo è rimasto sopra il prezzo di collocamento, quindi infatti ha chiuso a 3,39 euro, quindi una perdita consistente, ma comunque si può dire che l'effetto in borsa di un collocamento molto corposo di azioni ha tenuto molto bene. Ancora, il peggiore Tecnimont meno 4,13, il migliore Edes più 34%, Screen Service più 14%, Gabetti più 12,5%, Bastoggi più 10%, male oggi anche Carraro meno 2,90%. Grazie a Ciao Condina, Radio Colli sulle 24 ore. 1.200.000 addetti nell'intera filiera dell'auto, di cui 65.000 nella Fiat, 37 miliardi di euro di fatturato, bilancia commerciale positiva nonostante un mercato che si è dimezzato, quello delle matricolazioni auto in Italia, da 2 milioni e mezzo a 1 milione e 2, 1 milione e 3, e dicevo, continuano a esportare bene le nostre imprese di tutta la filiera della componentistica, non solo, con una bilancia commerciale positiva per 7 miliardi e mezzo, nel giorno in cui la Fiat, poco fa, Fiat Industrial, quindi camion e trattori, ha smentito che l'Italia, con il trasferimento in Inghilterra del domicilio fiscale di Fiat, che dicevo che l'Italia perderà 500 milioni di euro di tasse. Lo ha detto lo stesso portavoce della Fiat dopo articoli usciti in cui si sosteneva che trasformare Fiat Industrial in Dutchco, che è società olandese che avrà sede, pagherà i tassi in Essex, avrebbe significato per lo Stato italiano quasi 600 milioni in meno di euro di tasse pagate. Ed è nei nostri studi a Bologna il presidente di ANFIA, appunto l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica Italiana, Roberto Vavassori. In un settore che insomma riesce a esportare nonostante il calo di matricolazioni, e voi avete fatto delle richieste precise sia alla rete di distribuzione, di assistenza e di riparazione, che alla filiera complessiva. Quali? Abbiamo sentito anche nel convegno, è fondamentale la professionalizzazione del quello che chiamiamo la rete dei riparatori indipendenti. C'è un problema generazionale fortissimo, ogni anno ci sono 2.000 almeno piccoli riparatori che chiudono nel nostro paese, la stessa cosa succede in Europa. Sopravvive chi è più grande, che governa un territorio più ampio, quindi un parco circolante più ampio, con una professionalità molto più elevata. Chiaramente un riparatore di 60 anni fa fatica effettivamente ad abbracciare la nuova tecnologia, molto meno il figlio. Il problema è che spesso e volentieri il figlio non sceglie di fare l'autoriparatore perché non vede un grosso futuro in questo. Quindi c'è un problema intanto di consolidamento del mercato come in altri settori. Quelli che rimangono devono diventare per forza molto più competenti. Se posso, una piccola chiosa sul discorso della connected cars e della guida automatica. Arrivano perché l'Europa ha deciso che arrivino. Da qui al 2020 la legislazione europea chiede di dimezzare i 30.000 morti che abbiamo sulle strade ancora oggi in Europa. Li abbiamo già ridotti del 50% negli ultimi 10 anni, nonostante l'ingresso dei paesi dell'est che non sono virtuosissimi come guida e come strade. Euro NCAP, l'agenzia di sicurezza, ci dice che più del 90% degli incidenti accade per errore umano. Sono tutti sistemi non controllati e non governati, se non con pochissime regole. Devo tenere la destra, devo fermarmi al semaforo rosso. Io dico che tranquillamente tutti i sistemi che uso e che posso trovare sulle auto di guida automatica li uso senza nessun problema, e amo le auto sportive anche su percorsi giusti. Credo che sia l'unica strada per ridurre del 50% la mortalità in Europa da qui al 2020. Quindi un'applicazione ancora più forte dell'informatica sull'auto. Sì. Mm-hmm. Che ha più autorità, che, diciamo, rispetto al pilota. Che riduca la componente umana, diciamo. Il classico esempio è la distrazione, che è causa di un numero altissimo di incidenti. Sì. Distrazione, esatto, di tutti i tipi, che possa ridurre. Quindi diciamo, ci fidiamo così poco dell'automobilista che vogliamo che compri l'auto ma poi non la guidi. Io farei questa come battuta però per quello che riguarda poi la catena e la filiera complessiva, cioè l'assistenza, allora voi avete un problema con famiglie che hanno sempre meno soldi, e vabbè, questa crisi prima o poi finirà, perfetto, ma il cambio strutturale ormai è già in atto e non si tornerà più indietro. Cosa voglio dire? Voglio dire che ormai la macchina non è più status come era 20-30 anni fa, per cui non la compra più per dimostrare ciò che vale nella sua comunità di riferimento e nella cultura da cui proviene. I giovani, lei citava prima dei dati impressionanti su quanti sono i giovani senza patente, perché non gli interessa avere la patente, usano motorini e altri mezzi, e perché la loro mobilità è più quella sulla rete, diciamo informatica, sulla rete sul web, che non sulla rete autostradale. Allora, quindi avete una certa disaffezione di diversa natura, la mia per motivi economici perché sono troppo vecchio per essere giovane, ma quella dei giovani per motivi anche culturali. Qual è la risposta che pensate di dare come filiera dell'auto? Bisogna passare, imitando un po' quello che è successo nel mercato della consumer electronics, qualche anno fa il PC o lo smartphone era il feticcio, oggi è una commodity, non guardo più tanto la scatola ma guardo le applicazioni, dobbiamo passare dal metallo al servizio, diciamo che c'è una transizione da passare che vedrà metallo e servizio insieme, io devo vendere software e applicazioni. È questa l'unica cosa che un domani potrà mantenere viva la catena dei distributori. C'è sempre e meno anche importante la potenza del turbo, dei motori, i cavalli, certo. Lasciamo stare le auto sportive, gli appassionati, ma è sempre meno quello, è sempre più una commodity. Io devo montare su un'auto e avere gli stessi servizi che ho a casa, quindi il wifi, questo, la connettività, il telefono in viva voce, tutto quello, diciamo, deve essere una specie di ufficio viaggiante o diciamo deck viaggiante. Stiamo assistendo già a sperimentazioni in Giappone e non solo, a parte le auto che si guidano da sole, ma pensiamo solo agli attori nuovi che sono entrati nella catena. Cito quelli che producono GPS piuttosto che navigazione, qualche anno fa non c'erano, oggi invece vivono di servizi, questo è il modello del futuro. Un domani, da quando si esce dall'ufficio si entra in macchina, si potrà programmare il forno microonde, così quando arrivo a casa trovo il pasto fatto. Non sono cose fantascientifiche. Al prossimo salone di Tokyo a ottobre di quest'anno vedremo un modello realizzato dai giapponesi di Connected City, dove treni, autobus, autovetture lavorano insieme in maniera coordinata. Questo è il futuro, ma è un futuro, come dire, che sta arrivando. Noi dobbiamo solo iniziare a guardarlo, altrimenti ci passa. A me è piaciuta molto l'immagine, per concludere, che avete proiettato di uno smartphone con quattro ruote attaccate, nel senso che ormai dava l'idea di ciò che diventerà l'automobile, sempre meno, diciamo, potenza nello spostamento, sempre meno performante dal punto di vista ingegneristico, motoristico classico, diciamo, come eravamo abituati una volta, gli 0-100 in quanti secondi, e sempre più un grande contenitore di tecnologia tutta interconnessa, perché poi lei chiaramente, quando mi parla del forno microonde che io progetto dalla macchina, è chiaro che non la sto guidando e allora posso progettare il forno microonde, ma allo stesso tempo ricevo anche le informazioni in rete, per esempio in una connettività tipicamente urbana, se la metropolitana a cui vado a fare commuting è in ritardo, se il centro commerciale è ancora aperto e se ho traffico in quel tratto stradale. Ma se io dicessi che un domani, quando compri uno smartphone, ti regaleranno un'auto come gadget? Potrebbe essere, è una provocazione che raccolgo, perché all'ultimo CES di Las Vegas, che è la fiera mondiale della consumer electronics, iniziano a presentare autovetture in funzione delle applicazioni elettroniche che contengono. È la fiera dei computer, degli schermi al plasma, è impressionante vedere che da qualche anno le vetture sono presentate in pianta stabile. Non voglio dire una commoditizzazione, perché purtroppo le auto diventano molto più complesse e molto più low cost da un punto di vista, come diceva lei. Cambia il mercato, ancora il settore dei PC secondo me ci guida in questa direzione, quindi dobbiamo solo guardare quella traiettoria. Allora, nell'attesa di auto più intelligenti e anche automobilisti meno stupidi delle volte, io ringrazio il presidente dell'Associazione Nazionale della Fiera Automobilistica Italiana, ossia l'ANFIA, Roberto Vavassori. Grazie a voi e buon lavoro. Nine seconds. 18 e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dalla Fiera di Bologna per la prima giornata di lavori del salone più importante per la filiera dell'auto. Abbiamo ascoltato il presidente dell'ANFIA raccontarci quali sono le sfide. Vedo che molti di voi scrivono, alcuni anche in maniera polemica, va bene, sul tema delle auto ecologiche, ma non solo. Devo dire che in realtà, da quello che noi abbiamo visto, poi chiudiamolo con questo tema, la sfida più forte arriva proprio nel nuovo modo di concepire l'auto. Appunto, 18% dei giovani tra 18 e 25 anni non hanno la patente, non chiedono la patente perché non gli interessa guidare l'auto. È cambiato complessivamente anche il ruolo, come dicevamo prima, che l'auto esercita come status. Non voglio dire che sia un bene o un male, è cambiato e basta culturalmente, oltre alla contrazione dei consumi dovuta alla crisi, e quindi, diciamo, l'auto si sta trasformando in qualcos'altro. Questa tendenza appare molto chiara qui, non solo meccanica e ingegneristica come eravamo abituati noi, ma anche e soprattutto, diciamo, interazione continua con l'information technology, con tutte le apparecchiature cosiddette smart, e da lì la provocazione appunto di uno smartphone con quattro ruote, cioè un'estensione diciamo della dock. Dal futuro dell'auto passiamo invece al futuro dell'Europa, nel senso che il Consiglio europeo di oggi non è quello fondamentale a mio avviso di fine giugno, in cui si discuterà che cosa fare per la crescita dell'Europa e quindi come distinguere tra deficit, essere più tolleranti con i deficit e quant'altro. Quello di oggi è dedicato al fisco e alla lotta all'evasione fiscale. Da quello che si vuole accelerare per la lotta all'evasione e avviare i negoziati con la Svizzera. Chiedo comunque a Adriana Ceretelli, che è in collegamento con noi da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. E chiedo comunque, dicevo, se dietro le quinte o comunque in altri momenti si discuterà secondo te anche di quelli che poi saranno i temi di fine giugno, oppure se si resterà nel tracciato diciamo del Consiglio europeo di oggi, quindi accordo fiscale con la Svizzera, lotta all'evasione, 1.000 miliardi di euro di gettito fiscale nell'area euro che ogni anno vengono sottratti. Adriana. Beh, dunque il vertice innanzitutto è finito, ci sono già state tutte le conferenze stampa, non è durato più delle 4 ore previste e già questo appunto dice appunto quale possa essere stato l'approfondimento. Per quello che c'erano due grandi temi, uno il fisco, l'altro l'energia, non meno importante. Sul fisco c'è stata diciamo la volontà comune di ribadire la necessità della lotta all'elusione e all'evasione fiscale, appunto questo trilione, 1.000 miliardi che vengono sottratti ogni anno all'erario in tempi di austerità, il che sembra appunto sempre meno accettabile. Dal punto di vista concreto diciamo che c'è l'auspicio ad arrivare entro la fine dell'anno allo scambio automatico di informazioni, questo già diciamo esiste tra un gruppo di paesi, ma non diciamo con l'Austria e il Lussemburgo. E in questo caso l'Austria è sembrata un pochino più aperturista, il Lussemburgo con Juncker ha detto chiaro: noi siamo pronti a farlo entro il 2015, però a patto che anche gli altri paesi, gli altri paradisi fiscali extraeuropei, dunque Svizzera, San Marino, Liechtenstein e compagni, diciamo facciano lo stesso. Questo è comprensibile perché, come è noto, il Lussemburgo ha oltre il 30% del PIL che viene dall'attività finanziaria e dunque se diciamo rinuncia al proprio segreto bancario e gli altri lo mantengono, ovviamente ha uno svantaggio competitivo. Quindi diciamo l'impegno c'è, la volontà c'è, le pressioni su questi paesi ci sono e crescono, bisognerà vedere però come finiranno i negoziati con i paesi terzi, cioè con Svizzera e compagni, perché solo da lì si potrà sapere se in effetti ci sarà una svolta vera in Europa, quindi con l'approvazione tra l'altro di una direttiva sulla tassazione del risparmio che chiuda le falle che oggi esistono, quelle per esempio dei trust, delle fiduciarie, diciamo tutti quegli espedienti che permettono di eludere molte norme fiscali. Per quello che riguarda invece l'energia, diciamo c'è stato un impegno ad accelerare sul completamento del mercato unico e lì come al solito ci sono anche delle date: 2014 per integrare il mercato dell'energia, 2015 per creare le famose infrastrutture di rete che oggi non ci sono, però anche qui sono più di 20 anni che non si combina niente e bisogna vedere se alle parole seguiranno i fatti, in sostanza. Il terzo tema di cui per esempio ha parlato in particolare Letta è quello della disoccupazione giovanile e lì sembra appunto che ci sia la volontà di cercare di accelerare con la Germania, che si fa parte diligente diciamo di questa corsa al riassorbimento della disoccupazione giovanile. Anche questo però come sempre bisognerà vedere se alle parole seguiranno i fatti. Per quello che riguarda i temi diciamo del vertice, tu però dicevi all'inizio il fatto che sia durato 4 ore, adesso vediamo già le prime agenzie uscire anche sulla conferenza stampa del di Enrico Letta, però dicevo, il fatto che sia durato 4 ore vuol dire che si è limitato ai temi previsti, quindi energia e fisco. Assolutamente, sì. Secondo te questa è una scelta che va letta anche in un altro modo o semplicemente ancora presto per iniziare con una, quelle che si chiamano a Bruxelles delle bozze di piattaforma su cui discutere poi a fine giugno? No, io penso che si sia voluto dare un segnale, soprattutto all'opinione pubblica, sulla questione fiscale, perché ci sono opinioni pubbliche esasperate dalla pressione fiscale, dal rigore, eccetera, e che quindi non desiderano altro che dissentire, che perlomeno tutti paghino le tasse, visto che solo una parte in molti paesi è costretta a farlo. Però da qui a dire una svolta epocale, boh, vedremo. Ma a me sembra che siano i soliti piccoli passi che andranno verificati sul terreno, sul piano dei risultati concreti. Non ci dimentichiamo che sull'evasione fiscale la lotta deve essere globale, perché certo che diciamo il Lussemburgo si preoccupa della Svizzera, ma il Lussemburgo sa perfettamente che oggi con un click i capitali, una volta che fosse abbattuto il segreto bancario in Europa, i capitali potrebbero andarsene a Lussemburgo a Singapore o dove si vuole, nei paradisi fiscali ben più lontani. Quindi insomma è una questione molto complessa, non a caso verrà affrontata anche al G8 a fine giugno, al G8 che si terrà in Irlanda del Nord, e non a caso Cameron ha detto chiaro, Cameron il premier britannico ha detto chiaro che il tema sarà al centro dell'agenda degli incontri, perché insomma tutti sanno che se non sarà globale la guerra all'evasione fiscale difficilmente potrà essere davvero efficiente, insomma. Ed efficace, sono d'accordo con te, infatti il Presidente del Parlamento Schulz ha chiesto anche di arrivare a un accordo internazionale intanto per definire che cos'è un paradiso fiscale e poi avere una lista nera. Siamo d'accordo che più, tra l'altro, più si fa l'annuncio, l'effetto annuncio, faremo l'accordo con la Svizzera, nel frattempo è probabile che molte banche svizzere consiglino ai loro clienti di spostare i conti correnti in altre sedi, magari filiali a Hong Kong piuttosto che a Singapore o in altri posti asiatici, per cui l'effetto annuncio è peggio ancora, diciamo, della misura stessa delle volte, perché poi arrivi con i buoi che sono già scappati dalla stalla. Grazie Adriana Ceretelli. Invece poco fa le dichiarazioni del primo ministro Enrico Letta, che ha detto i 6 miliardi per l'occupazione stanziati a livello europeo da dividersi fra i vari paesi non bastano, ma sono un inizio. Mentre sempre poco fa, al termine dell'incontro al tavolo con le parti sociali, il ministro Giovannini, che ha incontrato appunto le parti sociali, ha detto 12 miliardi di risorse per il lavoro, le ipotesi relative alle risorse circolate nei giorni scorsi, la vedo un po' difficile. Alle 18:20 minuti riprende l'ultima parte di Focus Economia, e allora dicevamo del rapporto Istat, non possiamo elencarlo tutto, è un rapporto statistico immenso, ma riprendendo anche quello che dicevamo all'inizio, personalmente mi hanno colpito molto 3 cose. La prima, il crollo della propensione al risparmio in Italia, che è un fatto congiunturale, perché chiaramente ci sono meno soldi, c'è la crisi, ma forse anche un fatto culturale. Mi ha sorpreso molto perché noi storicamente eravamo il paese che più risparmiava al mondo dopo il Giappone, e come risparmi privati siamo scesi agli ultimi posti in Europa con una propensione al risparmio dell'8,2% contro il 12,2% del 2008, peggio di noi fa solo la Gran Bretagna. E poi il peso del fisco sul reddito delle famiglie, queste cose vanno anche ascoltate quando poi si parla di tassazione. Siamo al livello più alto dal 1990 come tassazione sul reddito disponibile, salita al 16%, e ancora è esploso il numero dei cosiddetti NEET, cioè i giovani che non studiano né lavorano, arrivati a 2.250.000. Le persone potenzialmente impiegabili nel processo produttivo sono quasi 6 milioni, che però sono perché sono 2.700.000 disoccupati veri e propri e 3 milioni di persone che, pur potendo lavorare o avendo l'età e le caratteristiche per lavorare, non lo cercano nemmeno il lavoro. Ecco perché si arriva tra disoccupati e sfiduciati a 6 milioni di persone, con un calo degli, con un aumento, scusatemi, degli sfiduciati 3 volte superiore al sud rispetto che al nord. Ancora per quello che riguarda le famiglie, ci sono 381.000 famiglie in Italia in cui nella coppia lavora solo la donna, un aumento fortissimo dal 2008, un 70% in più. Pensate che nel 2008 erano solo 224.000, quindi sono 160.000 famiglie in più in 4 anni in cui l'unica fonte di reddito è quella della donna che lavora. 450.000 dirigenti e imprenditori in meno in questi 4 anni, si sono persi 500.000 di posti di lavoro artigiani o pre-specializzati, ma anche tra i dirigenti e gli imprenditori il calo è stato fortissimo, meno 42%, di cui la botta più forte, a conferma che il 2012 è stato un anno terribile, devono metterselo in testa anche in Europa, meno 100.000 tra dirigenti e imprenditori nel solo 2012. La maggior parte dei casi erano piccoli imprenditori e dirigenti d'azienda. Un commento complessivo appunto da parte di Linda Laura Sabbadini, capo dipartimento per le statistiche sociali, al microfono della nostra Alessandra Schepisi. La caduta del reddito disponibile che c'è stato in questi anni e la caduta del potere d'acquisto delle famiglie ha fatto sì che si raddoppiasse in 2 anni il numero di famiglie che sono in grave deprivazione e che vivono quindi un grande disagio. Addirittura arriviamo a 1/4 della popolazione che è in questa situazione che è stata in questa situazione di grave disagio o nel 2011 o nel 2012 o in tutti e due gli anni. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, quanto ha pesato la crisi? La situazione del mercato del lavoro è particolarmente critica. Quello che va sottolineato è che abbiamo 2 fenomeni fondamentali. Un primo fenomeno è quello della caduta dell'occupazione che a partire dal 2008 è stata di 500.000 unità. Il calo è stato molto più accentuato al sud che ha avuto un calo di occupati 3 volte superiore a quello del nord del paese. Il segmento più colpito da un punto di vista dell'occupazione è stato quello dei giovani. I giovani hanno perso 7 punti di tasso di occupazione, 727.000 occupati in meno e contrariamente a quello che si pensa, avere una laurea paga di più nella possibilità di trovare un lavoro o comunque di mantenerlo, perché i giovani che sono più colpiti sono quelli con un basso titolo di studio o con il diploma. Appunto, vengono colpiti le categorie più deboli, come già dicevamo prima. Qualcuno scrive bastava andare in giro per le aziende a capirlo, lo so, però attenzione, hanno anche ragione alcuni ascoltatori che alla luce di quello che ha deciso o non deciso il Consiglio Europeo scrivono: ma non bastava una conference call? Io onestamente ritengo che questi vertici fatti così 4 ore, per carità, si saranno visti, si saranno parlati, ma esistono i telefoni, esiste internet, esiste Skype, esiste quello che volete voi, ma ancora è necessario con tutto l'ambaradan di delegazioni vedersi per il Consiglio Europeo per 4 ore per stabilire che bisogna fare la lotta all'evasione? Cosa devi stabilire? Che l'evasione è bella? Non so, mi sembra un mondo più da congresso di Vienna che da 2013, però vabbè. Torniamo al rapporto Istat che abbiamo riassunto. Il vice ministro dell'economia Stefano Fassina, a margine della presentazione del rapporto Istat, sempre intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi, dice: faremo tutti gli sforzi per evitare l'aumento dell'IVA. Ritengo che dobbiamo fare tutti gli sforzi per evitare l'aumento dell'IVA, perché la situazione fotografata oggi, che purtroppo non è una novità, è una situazione drammatica, e il governo è impegnato a migliorarla e l'aumento dell'IVA non va nella direzione giusta. Per quanto mi riguarda, dovremmo considerare bene insieme IMU, IVA, TARES, ticket sanitari, perché le famiglie, soprattutto quelle con i redditi più bassi, come ha ricordato il rapporto, sono in grandissima difficoltà E questa difficoltà si riflette sui consumi, sugli investimenti delle imprese e sull'occupazione. Un circolo vizioso che dobbiamo spezzare e non alimentare con un ulteriore aumento dell'IVA. Allora, non vorrei chiudere in maniera polemica, però Fassina, Vice Ministro Fassina, ci dica come. Siamo tutti d'accordo che l'IVA non va aumentata, ma o ci spiegate come, perché l'IVA vale 4 miliardi di gettito, più se non l'aumentate a luglio, cosa che noi tutti auspichiamo, sono altri 2 miliardi e mezzo, 3 che devono essere recuperati per il mancato gettito parziale per quest'anno. Allora, 4 di IVA più 2,5 fa 6,5, l'IMU sono 4 miliardi fa 10,5, la cassa integrazione in deroga avete trovato i soldi, forse, ma serviranno 2 miliardi perché l'avete prorogata per 3-4 mesi, o ci dite dove trovate 10 miliardi, 11 miliardi, o se no sono desiderata che lasciamo così agli ex voto, ai post-it, ai baci perugina, ma che senso ha dire va evitata se non sappiamo da qua a luglio dove il governo può trovare anche i 4 miliardi per l'IVA. Ho detto che non volevo essere polemico e invece lo sono stato. Chiedo venia, un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni, però certe frasi, certe dichiarazioni di principio non ne posso più. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia.